si accende. Cavale, va bene, dai. L'ha tutto calpestato, non ho capito cosa ha detto. No, adesso la veloce lo mettiamo, tutto schiacciato. Ma mi lo fatti rispettare, vedi, ti ho l'impianto buono. Una buona antenna lì ci vuole, un'antenna che schicchi. Oh già! Sì. Lì ci vuole un'antenna nuova e via. Con la stessa antenna ci voglio 400 metri di palo. Ehi cazzo, è rigusta. E allora ecco un pulito sopra direttamente, attaccata alla ringhiera. Ah, io se sarei a me a lui, sarei salito su alla circolazione. Ci avrei messo l'antenna. E avrei portato il cavo a casa. Dove la circolazione? Dove c'è la pasticceria al giro lì? In alto. Dove c'è? Vicino a me c'è una discarica una volta. Faccio la vita. Esce la riga più. Ovvero. Raga nuova, basta fiaccate, vi metti un tiro, ma vai che già si sporto. Beh, se sei in campagna tua è ovvio. No, io l'avrei messa e l'avrei controllato da lì. Cazzo. Oggi da lì che fa fare due giri dello smettermi. Cosa? Chi è che mi fa fare il giro di smitter? Gabinuccio, se vai in campagna sua, ti fa fare due giri di smitter da lì. Ah. Lì è in alto, è bello. Ehi, bene, buonasera. Se sei un criminale. Perfetto. Ciao Tino, buonasera. Buonasera Franco, allora, hai capito? Gabinuccio disturba, boh. Sempre come i kilowatt attaccati. Invece sono zitto là. Franco. Ciao Tino, dai. Io riprendo e faccio un quadrettino che vado a mangiare, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao Gianni, scusa, non sapevo neanche chi c'è, non ho fatto ascolto, quindi. Non preoccuparti. Ciao Tino! Ciao a tutti, ciao Franco, ciao Gabino, ciao a tutti. Ciao Giù. Puntoni, faccio un quadrettino, dai. Ciao a tutti, ciao Franco, Tino, Gabinuccio e Gianni, ciao a tutti, quadretti per me. Ciao Giulio, ma perché stai urlando che non ce n'è bisogno, che tu hai una voce già abbastanza squillante e mi stai facendo vibrare il baracchino? Meglio così. Ciao Giulio, ciao. Ciao Giulio. Ehi, ora la patata. Ah no, così è. L'ho mattato sardo. Cappa. Bella. Ma Giulio, cosa ti hai fatto? Vabbè, dai. Va bene, riprendi la menù. Già me lo ricordo, guarda, io quando ero alla protezione civile lì a Sennori, salivamo con la macchina, ci appostavamo. Era bellissimo, raga. Anche senza lineare lì uscivi bene. Come la nostra zona di San Francesco, per dire, non è che non c'è bisogno di lineare, hai la città sotto i tuoi piedi. Infatti. Era bello, era, allora sì. Vabbè, altri tempi erano, poi era diversa, modulare quegli anni era diverso di adesso. Sì, fra, prima crescevano le antenne come i funghi. Non c'era per raccogliere antenne, non c'era bisogno di fare strada. Ui. Ma sono rimasti in pochi però, non è che, cioè tutti quelli che hanno abbandonato non sono rimasti fedeli alla radio, alla CB in generale, perché hanno preso, hanno smontato anche le antenne. Sì, tutto hanno smontato, tutto quanto. Qua sotto i palazzi erano tutti pieni di antenne, tutti pieni. E i ragazzini, come facevano il compleanno, al padre gli chiedevano sempre un baracchino. E allora, noi. È così. No, vabbè, quello non. Qua non succedeva, però qua succedeva più che altro della nostra greffa, dai, che lo convincevi e si piazzavano in un baracchino, poi siccome prendevamo gli sprati allora doveva migliorare. E infatti. Vabbè, è strano però che non è entrato Italo, adesso non mi ricordo il cognome, non mi ricordo, era neanche il nominativo, non mi ricordo. Chi era Italo e Piero? Italo Totano 2, mio compare quello lì. Totano 2, sì, è tuo compare? Sì, di fede. Lo conosco di persona. A lui anche a Piero, il suo collega. Piero Vaccinito, il mio vicino di casa, Piero De Lupo. Infatti non li ho più visti. Papà ha detto, ma chissà che si sono pensioni per lui. Ma allora, Piero è già in pensione già da qualche anno, diciamo forse 2 o 3 anni, se non 4 anche. Sì, lo vedo batticare qua in zona perché ci incrociamo così in strada, mentre invece Italo non sta tanto bene. Italo insomma è un po' malatuccio, quindi è un po' in casa, un po' ricoverato e non è nelle migliori condizioni. Questo mi dispiace. Grazie, ciao. Se liberi, salutami. Sì, guarda, faccio fatica anche io a salutarlo perché mi ho visto il figlio avanti ieri. Tu pensa che io a Mallio lo conosco, che lui aveva 2 anni e mezzo fino ad oggi, quindi adesso è già abbastanza grande e niente, ma tu sì, non è che ci sta con la testa, capito? Quindi è un po' così. Vabbè, cosa della vita. Insomma, vabbè, si potrebbe evitare. Gavinuccio, ma bello è che hai dato un pezzo di cinghiale a Massimiliano a portarlo qua e invece se l'ha mangiato lui. Ma non va bene, Massimiliano, se sei all'ascolto, cerca di portarlo qua. Hai capito, maledetto. Ecco perché ha detto, devo tornare a finire. No, guarda la carriola voleva, capito? Non stava niente in macchina, aveva il cofano pieno anche. Andare, Giulia. Vabbè, va bene così. Quello che non è che mi devi dare spiegazioni, no, per carità, ci mancherebbe altro. Qua. Fallo riscendere. Ciao Claudio. Ciao, con chi stai parlando? Non senti a Gavinuccio. Prova Gavinuccio, sì, che ti sento, Santiago 7, te l'ho letto. Quando attacchi arrivi a 9. 9? Cosa? Beato voi lo sentite, io non lo sento. No, ma che? Attaccato a te. No, adesso sei quasi 9, Gavinuccio. Sono senza i picciti, non ci vedo una minchia questo smitter. È vecchio, scusalo Gavino. È vecchio Edu. Quanto siamo che non ci vediamo, Tino? 2 settimane fa ci siamo visti. 2 settimane fa? Ma è possibile? No. No, siamo a maggio, no, siamo visti a maggio, dai. Forse a fine aprile siamo visti, o i primi di maggio. Almeno avevamo 28 oggi, quasi un mese. Ma cosa quasi un mese? No, possibile. Allora sono malato, cazzo. Se già avevo perso 8 kg quando mi hai visto tu. Adesso ne ho perso altre 2, sono 10. Sto diventando più magro di Franco. Ma stai alla larga da me perché li sto raccogliendo io quelli che stai perdendo tu. Io per te, tra te e Massimiliano c'è sempre ben incendi. Cos'è più magro di me? Fra, perché tu ingrassato hai? L'ultima volta che siamo visti stavi bene. L'ultima volta che siamo visti non è che ero magro, no. Non sai che sono seduti per ingrassare. Ah, così è. Io ero 90, ne peso 80. Proprio mi sono pesato stamattina, 80 kg, ero 90, ne peso 80. Allora, ma poi come se mi guiano, mi ha detto di sì. Pensa che ho buscato un cane alla veterinaria, mi ha detto che aveva negato 3 kg. Io sto guidando la dieta, mi sono nell'annegheggio, questo guglielmo mi serve l'annegheggio. No, a me mi ha messo a dieta l'ortopedico perché c'è un problema molto serio alla schiena, alla spina dorsale soprattutto. E quindi non ce la facevo più a camminare, capito? Non fiavano le ginocchia, le gambe, ed era il peso, perché c'ho questo problema alla spina dorsale. E allora ho dovuto dimagrire. E sono ancora, devo ancora scendere, almeno a 75 devo scendere. E rimanerci però, rimanerci a 75, perché il problema è quello. Però ormai mi sono abituato, beh. Già va bene, già va bene. Ho lasciato tutto, le cose sporche, e stiamo facendo cose pulite. E allora Gavinù, quindi arrivi a Vito, dai. Ma perché adesso lo stai usando? La Grand Prix? No, dovrebbe essere la Energy 50. Ho capito, e voi una Lucca Master. Come ti già maestro? Tutti? Sì, sì, già va bene Gavinù. Dimmi, ma è claro. No, si chiama Guy Lucca Master. Ah, Guy Lucca Master, sì. Se tu li togli gay non è più gay lui. Aspetta che la prepara anche a me, poi vediamo, facciamo la guerra. Sempre con la gay? No, il mio magone, non è un gay. No, io dove c'era la manta, adesso l'ho spostata, dove sono le direttive, tanto non cambia niente, dove c'era la manta va lì in quell'angolo, metto una multibanda a 5 bande, sempre della pick up W, capito? 10, 15, 20, 40, 80, l'ho già ordinata, dovrebbe arrivare, no, spero più in fretta possibile, ho già tutto pronto, qua l'ho tutto già staffato, devo solo infilare l'antenna e allungare il capo al commutatore, alla centralina del commutatore elettronico, manco cavo di discesa, devo mettere perché ce l'ho già. Ma verticale? Sì, verticale, direttiva sto togliendo tutto, è rimasta solo quella da 5 elementi per i 6 metri, tolgo anche quella, capito? Infatti gli ho chiesto a Stefano se mi manda quella con i 50 mega, mi ha detto che non ce l'aveva. Quindi mi ha detto se aspetti, vabbè, in realtà scusa, non me ne ha fottuto nulla di 50 mega, mandami quella che c'hai e allora mi spedisce quella. Sì, una curiosità, hai visto la resa in confronto ai dipoli? Sì, i dipoli lo sai come funzionano, io ho un bel spazio per i dipoli, io ho 15, 20, 40 e 80 come dipoli, capito? Agganciati tutti su un occhiello che vanno alla centralina e lavorano molto bene, soprattutto quelli di 80 e dei 40, in 20 e in 15 un po' meno, però dipende dal tipo di orientamento, mentre invece con la verticale non hai problemi, la metti lì e fai tutto, perché io ho visto quella di Roberto, lo stesso, che lui la ce l'ha per ricevere, l'ha comprata, l'abbiamo piazzata assieme domenica mattina, è una cannonata della pick-up W, 5 bande, capito? E funziona molto molto bene, infatti io sono entrato in 40 a fare delle prove, nonostante sia molto bassa, lui non c'ha la zona mia, perché sono molto, il doppio più alto di lui, sono arrivato 5,9 più 10 in provincia di Milano, in verticale, in 40 metri. Sì, una unidirezionale, certo, no, vabbè. Ci stavo pensando anche io, dai, vabbè, adesso vediamo, non lo so, per il momento non mi interessa, anche che stare a piazzare corna e cornette, capito? Va bene, riprendi fra. Capo, io riprendo e vi lascio, me ne vado a mangiare. Sentiamo, ciao Tino, ciao Claudio e ciao Gavinuccio, ci sentiamo per le prossime, riprendi Gavino e fai girare. Correti per me. Ciao Fra, ciao, tante belle cose alle prossime, dai, ci sentiamo. Vai ti. Tino. Ascolta Gavino, che linearetto stai usando? Uno piccolino? Vabbè dai, l'importante è che arrivi. Ma più basso sei tu, in che zona sei di sorso? Ah, è vero che sei a Sennori, tu dove? Sopra la scala? Dove sei? Di fronte alla farmacia? Dove? Di fronte al bar, all'angolo? Dove sei? Dove c'era il coso di Secchi? Lì sei? Ah, l'infarata che fa l'Eurospin. Oh Gavino, buona questa radio, cosa ti pare? Cosa ti sembra? Voi se non avete le orecchie spaccate dall'amplificato non siete contenti. Questo è un microfono normale, cosa vuoi di più? È un Lincoln questo, però il microfono normale, palmare. Io lo conosco bene, essendo io che ci ho lavorato, l'ho gestito per anni, io ci avevo l'impianto solo a Jordan, dove c'è Vito, io lì gestivo, passavo tutte le mattine a fare letture con Giuseppe, quindi ho lavorato tanti anni, la conosco molto bene, per quello te l'ho detto, scendevo per proprio da lì o per poi scendere a Sorso, no, chi tagli se ci inchivi dove c'è l'Eurospine e vai a Sorso, un lavoro impianto di Sorso. Sì, va bene Tino, va bene, usa tanto l'ambulana, va benissimo, qual è quello, lo standard? Sì, claro, lo standard, però aspetta un attimino, forse ho... Ho alzato un pochino di vatto, hola, com'è? Come va? Guarda un attimino, si è migliorato, cla, perché non mi ricordo com'era questo, il power. No, va bene, lascialo stare così che va bene. Finalmente c'è bene con la radio, per carità, come dire. Meno me. Hai trovato già? Ehi, ti chiamo già, ti chiamo. Fammi liberare queste mattinate, sono incasinato nero, stiamo organizzando un cantiere nuovo e quindi sono incasinato. Appena mi libero ti chiamo così ti salgo col manuale dell'Alan 48 e mi prendo quel commutatore, così me lo sostituisco già, capito? Grazie, eh? Ciao Gianni, ciao. Cappa, dai, ciao Gianni, un abbraccio, un saluto forte forte, dai. E siamo in compagnia di Gavino, ce non so se l'ascolti, Gavino, vai avanti. Ehi, Gianni, l'hai sentito Gavino? Dai, riprendo io, ciao Gianni, comunque ti saluta. Riprendo io perché mi devo spostare un attimino dalla radio, dai, e Claudio riprendi. Sì, sì, io seguo Gianni Capri, dai, ciao Gavinù, ciao Tino, ciao Gianni, un saluto circolare a casa, dai. Sì, ti chiamo, tranquillo, così salgo e me lo prendo col commutatore, grazie mille. Vado a cena anch'io, dai, a dopo se coincide, ciao a tutti. Ciao Gavinù. Sì, ciao Gavino, ciao, scusa, dovevo girare il pollo, cioè che magari poi mi fugge. Ma c'hai ali di gabbiano? No, il petto, no, anzi, le sovraccuscia. Buono, porca miseria, beati voi, lo fate arrosto, io ogni volta lo devo fare al forno, una rottura di balle. No, guarda, sinceramente, tra oggi non avevo voglia di accendere il forno, il fuoco, mi sono dedicato a fare al forno, con un po' di patate, giusto che, so, così. A me piacciono un sacco le patate, sia quelle coltivate che... Sì, mamma mi ha fatto male a patate, quindi a me le patate mi piacciono al forno, fritte, bollite, salata, come ti vuoi. Proprio, sì, anch'io faccio così, però al forno, sempre al forno, sempre al forno, capito? Ogni tanto è buono anche arrosto, però io quando ero nono piano... facevo anche il fuoco, capito? Oppure elettricamente fuori, sai, sono diversi. Qua al secondo piano non posso far fumo, quindi devo aspettare di andare in campagna. Va bene, va. Un abbraccio, ci sentiamo dopo, Muccolo, ciao. Ehi, ya, a dopo, dai. Va bene, ciao. Gappa. Claudio, ci sei? Eia, aspetta, ti mando una foto. Cioè, ci credi che mi sa che sono anche troppi questi microfoni. Adesso me li devo tutti spostare dentro perché non li lascio mai la notte fuori. Adesso lascio solo l'MV5 e tutti li porto dentro. Certo che sì. Ciao Luca, ascolta, me l'hai fatta la connessione? È finita. No, non l'ho fatta la connessione, stavo provando con Roberto, ma ha detto proprio che la facciamo dopo, che adesso stavo sistemando le batterie del camper. Ehi, va bene, dai, io vado a mangiare e ci sentiamo dopo allora, ok? Ciao Lucarie. Ciao Claudio. Ehi, mi ho mangiato adesso. No, io vado a mangiare adesso, dai, ci sentiamo dopo, ok? Ciao a tutti. Ciao.